La storia e la memoria di Dino Pesole. La politica, lo sappiamo, non vive una delle sue migliori stagioni. Diffusa è la disaffezione rispetto ai partiti che paiono in piena crisi di rappresentanza. Crescono ovunque in Europa i movimenti populisti e antisistema. E la crisi esplosa nel 2008 di certo non ha contribuito a ridare forza e prestigio alla politica e non solo in Italia. Eppure i partiti sono fondamentali nelle moderne democrazie. Da noi, dalla fine del fascismo, sono parte fondante della Repubblica. L'interrogativo è se i partiti e la politica, soprattutto dopo il crollo delle ideologie e delle formazioni politiche tradizionali, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista nel nostro caso, siano oggi in grado di interpretare le istanze che provengono dalla società. Ne parliamo questa sera con Gianfranco Pasquino, per diversi decenni docente di scienza politica all'Università di Bologna, politologo, ex senatore, attento osservatore dei moderni sistemi politici e parlamentari, autore del libro Partiti, istituzioni, democrazie, edito dal Mulino. Il volume sarà presentato il prossimo 24 ottobre alla Camera. Buonasera professor Pasquino e bentornato. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Ascoltiamo prima di tutto insieme questi passaggi del suo libro. È sempre difficile periodizzare con precisione, ma può forse essere accettabile ricorrere alla partizione formulata da Paolo Farneti, che definì la fase 1948-1958 come il decennio della società politica, cioè dell'egemonia della società politica nella forma dei partiti politici. I partiti si caratterizzano in questo periodo come centri di elaborazione e di decisione politica e in effetti le grandi scelte di adesione a organizzazioni e alleanze, le comunità europee e la NATO, e di ricostruzione economica attraverso la fine del protezionismo e un accordo organico con la Confindustria saranno davvero nelle mani dei partiti di governo. Al tempo stesso i partiti di opposizione mobilitano ampi settori del movimento operaio contro queste scelte. E si cristallizza così la polarizzazione politica e sociale che definisce sicuramente gli anni 50. Per restare alla partizione e ai criteri utilizzati da Farneti, il decennio 1958-68 rappresenta invece un periodo che si potrebbe definire della società civile. La terza fase consiste in una tendenza alla fusione tra società politica e società civile, di cui non si possono ancora individuare le conseguenze. Dunque, professor Pasquino, questa è la fase che tuttora stiamo vivendo? Una tendenza alla fusione tra la società politica e la società civile? Purtroppo no. Oramai siamo entrati in una fase, da un lato, di straordinaria frammentazione della società civile, frammentazione particolaristica, spesso anche corporativa e qualche volta persino egoista, e dall'altro siamo in una fase di confusione. Cioè i partiti non sanno più bene che cosa rappresentano e la società civile si sente malamente rappresentata. Devo dire che le responsabilità stanno su tutte e due, sia sui dirigenti di partito che non hanno saputo rinnovare le loro strutture, sia sui cittadini che a un certo punto, travolti da un insolito benessere, hanno deciso che i partiti non contavano più o forse non erano più necessari. E si è aperta la fase attuale che, come vediamo, potrebbe anche essere definita una fase di disintegrazione. Ecco, eppure nel leggere il suo libro, nello scorrere le pagine di questo interessante volume, si ha la conferma che, parliamo dell'Italia, il ruolo dei partiti è stato fondamentale in moltissimi decenni della nostra storia repubblicana. Poi cos'è accaduto, professore? Tutto il sistema è imploso con Tangentopoli oppure c'è stato un progressivo, come dire, disfacimento della capacità di rappresentanza dei partiti? Tangentopoli è già un effetto della crisi dei partiti. I partiti, in particolare i due maggiori, non si erano rinnovati, però il vero detonatore della loro crisi è dato dal 1989, quando i comunisti non possono più restare tali perché la caduta del muro di Berlino li obbliga a cambiare e quando i democristiani non possono più ottenere un voto molto elevato da parte degli italiani perché non vengono più considerati necessari in quanto non c'è più il comunismo e quindi non c'è più bisogno di una diga democratica. cristiana. E poi si aprono i problemi europei che la maggior parte dei paesi italiani non hanno capito. Maastricht è ugualmente una zona della crisi perché pone degli obblighi che i partiti al governo non sono più in grado di soddisfare. Ecco, un passaggio del suo libro, lei parla dei sistemi elettorali, un sistema elettorale per rappresentare e governare, e dice appunto che tra tutte le componenti di un sistema politico il cosiddetto sistema elettorale è certamente quello maggiormente più rapidamente manipolabile. In che senso, professore? È manipolabile perché è una legge ordinaria, quindi può essere cambiata in Parlamento, e così fece il centrodestra nel 2005. È manipolabile perché, essendo una legge ordinaria, può anche essere abrogata attraverso referendum, e così fecero i comitati promotori del referendum sulla preferenza unica nel 1991 e nel 1993. È manipolabile perché poi anche i partiti e i candidati possono intervenire con la loro campagna elettorale, certo con una manipolazione più contenuta di quella che si ha invece intervenendo sulle regole vere e proprie. Però il punto fondamentale che voglio sottolineare per quel che riguarda i sistemi elettorali è che sono una vera e propria cerniera tra i cittadini che esprimono il loro voto e i rappresentanti e i governanti. Se la cerniera è brutta, logora, malfatta, funziona male, quello che abbiamo è una cattiva rappresentanza e non necessariamente cattivi governi, ma governi compositi e forse costretti a costruirsi e a decostruirsi in Parlamento. Se rileggiamo insieme rapidamente la storia del nostro paese negli ultimi anni, si può, secondo lei, sostenere che la crisi dei partiti comporti dei rischi per la tenuta della democrazia? Proprio per la tenuta no, cioè vale a dire che i partiti non possono distruggere la democrazia. Se i cittadini hanno dei sentimenti democratici, hanno un attaccamento alla democrazia, se i cittadini sanno che in realtà non c'è nessuna alternativa, o meglio, che qualsiasi alternativa è peggiore alla democrazia che hanno, per quanto di bassa qualità. Però quello che è indubbio è che la crisi dei partiti incide sulla qualità della democrazia. Se guardiamo nel resto dell'Europa, e questo è sempre un insegnamento da seguire, cioè avere un minimo di prospettiva comparata, vediamo che dove i partiti funzionano bene, funziona bene l'intero sistema politico e anche i rapporti tra politica e società. Dove i partiti funzionano meno bene ci sono dei problemi. La Germania non è un caso miracoloso, è il prodotto di partiti che rappresentano in maniera molto efficace i loro cittadini e che sanno poi governare il sistema politico. Ecco, veniamo al tema della partecipazione politica. C'è un momento, secondo lei, in cui si può stabilire che in Italia in qualche modo entri in crisi il modello della partecipazione così come l'avevamo conosciuto almeno per 40 anni, quando c'erano i partiti più o meno di massa che si dividevano l'elettorato? Sì, di nuovo, una vera e propria crisi no, però certamente ci sono problemi di partecipazione e difficoltà di partecipazione. Tutto questo credo che possa essere attribuito, ma non come causa. La fase è la fase del 68 e degli anni 70, per così dire, ed è la fase nella quale c'è una nuova generazione che si affaccia alla politica, pretende di esercitare maggiore influenza di quella che i partiti, che erano strutturati sì, ma da un lato con il centralismo democratico del Partito Comunista, che dava grande potere ai dirigenti e non grande potere agli iscritti e ai simpatizzanti, dall'altro con la Democrazia Cristiana, che era un paese di correnti, che dava grande potere ai leader di correnti, e infine, da non dimenticare mai, i socialisti, che erano sì aperti, ma erano molto divisi al loro interno, e quindi l'influenza bisognava esercitarla partecipando ad alcune delle attività che ponevano insieme alcuni dirigenti socialisti. Quando tutto questo viene sfidato dai giovani del 68, cioè una generazione che aveva vissuto tutta la sua vita nell'ambito del regime democratico, i partiti non hanno una risposta adeguata. Sopravviveranno così come sono per altri 20 anni, ma non riusciranno a trasformarsi in maniera efficace. Un'ultima domanda, professor Pasquino. Quando manca l'alternanza, lei dedica un capitolo, un paragrafo del suo libro a questo tema. Cosa succede quando manca l'alternanza? L'alternanza è uno straordinario fattore di pulizia politica. perché consente all'opposizione di ottenere il potere di governare e quindi la obbliga ad essere realistica e quindi a non a proporre l'impossibile, obbliga i governanti a fare molta attenzione alle mutate preferenze dei loro cittadini, dei loro elettori e quindi rende la politica più fluida e più efficace. Se non c'è alternanza e chi sta al governo sa che non può essere sostituito, farà, diciamo brutalmente, i comodi suoi e quindi magari accetterà anche la corruzione più o meno modica. E chi è all'opposizione non sentirà nessun bisogno di rinnovare i suoi quadri perché tanto non vanno a governare e quindi si burocratizzerà. Questo è purtroppo quello successo per l'appunto ai due grandi partiti, Democrazia Cristiana sempre al governo e Partito Comunista sempre all'opposizione, con un leggero elemento di fortuna, diciamo così, che i comunisti erano obbligati a governare alcune zone locali, i comuni e le famose regioni rosse, e quindi una qualche pratica di governo avevano, ma questo naturalmente non bastava a renderle del tutto realistici e del tutto plausibili come governi alternativi. Grazie professor Pasquino e buona serata. Grazie a voi e alla prossima puntata.